emotions are just right, and you are standing on a cliff, and you can close your eyes. Killing Type, Amanda Palmer, Sissi Iris Blooming, Donna Sonica vi dà il benvenuto e le benvenute qui su Radio Onda Rossa, chiusura del martedì femminista e lesbico autogestito. E qui con me stasera ci sono due gradite ospiti, due componenti della band Dance OK. Ciao, ci siete dentro? Sì, yes. Sì. All right. Sì. Ciao, allora siete qui perché è uscito il vostro nuovo album, quindi insomma, siccome Sisterhood promuove la musica di donne e insomma promuove la musica indipendente, il vostro album è un prodotto super indipendente, quindi insomma siamo qui per parlarne. Allora, titolo dell'album Golpe, esatto. Uscito, prodotto da voi, mi raccontavate, registrato da voi e poi avete incontrato qualcuno che poi vi ha aiutato a fare il resto. Elisa, Stella, raccontatevi. Vado io? Vai Ali, dai, che c'è la voce radiofonica. Sì, quindi come dicevi tu, abbiamo deciso di registrare perché eravamo arrivati a un momento in cui bisognava incidere per trovare delle soluzioni e quindi abbiamo registrato con i nostri mezzi, siamo andati giù in Sicilia a Ragusa da degli amici. E abbiamo... Ragusa è un posto bellissimo tra l'altro, quindi com'era questa sala? Com'è? Ammazza. Un posto bellissimo in campagna ragusana, sì. Fantastico. Noi con le mucche. Il posto perfetto per registrare. Infatti, sì. Ha influito, secondo me. Sì. Sul sound dell'album, dici? Beh, sì, alla fine siamo stati una settimana lì chiusa praticamente. Abbiamo fatto delle diverse session di impresa diretta e poi abbiamo preso insomma il meglio di quello che è venuto fuori, quindi non lo so, il mood della situazione secondo me si sente. Mi dicevate questa cosa molto interessante, che avete registrato in presa diretta, quindi insomma è un modo di registrare un po' particolare, magari per chi non ha tanta dimestichezza, insomma, generalmente funziona che ogni componente, ogni musicista registra la sua parte con insomma il resto in cuffia o i click in cuffia, eccetera, eccetera. Registrare in presa diretta significa che si sta suonando tutte quante insieme. Parlatene voi. Vabbè, c'è un'energia diversa perché ovviamente quando tu hai il metronomo in cuffia e ti fai la tua parte, sopra la parte che hai registrato, l'altra è... Non lo so, è un modo diverso di suonare, invece certo se stai in sala contemporaneamente suoni con un altro spirito. Non so, c'è uno scambio di energia diverso sul momento, no? Sì, comunque contiene il calore di un live, però diciamo con la precisione della registrazione in studio. Esatto. Allora, nove, tra l'altro stavo sfogliando, guardando l'album, che insomma è molto bello, molto, molto carina la grafica, i colori, eccetera. Poi mi raccontavate, ci sono sull'album e all'interno poi del dove ci sono i testi, eccetera, dei negativi, insomma delle foto, no, dei provini anzi, che così sì. Si chiamano, di vecchie foto di alcune signore sulla sponda, mi sembra, di un fiume, così, insomma, mi raccontavate che questo era appunto del materiale d'epoca. No? Sì, e del materiale che aveva, che ha Elisa, che è la nostra batterista, e che è una visual artist, come si dice, e lei lavora appunto con del materiale trovato, rimediato, insomma antico, come dire, e fa dei collage, e quindi mentre stava insomma sfogliando il suo materiale, pensando ai suoi lavori, era lo stesso momento in cui cercavamo, diciamo, il nostro progetto grafico, qualcosa che ci significasse qualcosa. Ha pensato, visto questi provini di tre giovani ragazze con il foulard in testa, tutte contente, in cui no, c'è un provino in cui ce ne sono due e fanno segno a una terza, e nel terzo provino sono tutte e tre insieme, e quindi mi hanno detto, vabbè, questo è quello che fa per noi. Perché golpe? Ecco, vai Stella. Posso rispondere io? Non è nato come uno scherzo, in realtà. Quando stavamo registrando il disco, i ragazzi dello studio scherzavano sul fatto che, quando le avevamo parlato delle registrazioni, insomma, le avevamo messa come veniamo a registrare un disco, un trio acustico, una chitarra acustica, violoncello acustico. Così, una roba forse un po' cantautoriale. Poi siamo arrivate lì con Elisa che sfoderava la sua chitarrona elettrica, io pure violoncello con distorsioni, effetti, un suono molto lontano da quello di un violoncello tipico, acustico. Elisa, la nostra batterista, che suona come uno scaricatore di porto. E quindi insomma loro così scherzavano sul fatto che io e Elisa avevamo compiuto un golpe nei confronti di Elina Tali, cantautrice, portando così, prendendo il potere, portando il sound del gruppo verso suoni molto più duri. Intanto, mentre ascoltiamo Polyamorous God, mi sembra che la traccia che apre l'album, quindi nove tracce, inglese, francese, insomma noi siamo un po' abituate, noi romane che ti conosciamo, ma non ti conoscono solo le romane, non conoscono Dance OK solo le romane, anche perché siete reduci da un tour, insomma, in Italia. Raccontatemi un po', com'è andata? Siete state in Sicilia, Emilia, Piemonte? Sì, abbiamo fatto Ragusa, Messina, Catania, Marina di Gioiosa Ionica. Non avevo tutte le date, li siamo in giro dal 3 di marzo. Vabbè, sì, abbiamo fatto, diciamo, l'estremo sud e poi il nord, diciamo, e con una data in mezzo al Porto Prenestino, a Enotica, sabato, no, venerdì 15, e quindi sono state le nostre prime date di presentazione dell'album. È stato carino, come, che dire, insomma, faticoso ma bello, con una risposta buona comunque, sì. Ok, ti dicevo anche delle tracce, insomma, francese e inglese, che poi è una sono le lingue in cui ti sentiamo cantare più spesso. C'era qualcosa anche in italiano, però poi hai abbandonato, vero? Sì, è vero. A causa del golpe. Sempre il golpe, no? Appunto, torniamo. Ci ascoltiamo un pezzo da quest'album, si intitola Lady in Me, loro sono Dance OK. The way you lay your hands, and how still I believe the lady is to be. Ok, in studio con noi per presentare il loro album Golpe, è uscito l'8 marzo, insomma da pochissimo. Magari diamo anche dei riferimenti per chi volesse acquistarlo, speriamo, e magari se c'è qualche data in programma o dove possiamo andare a controllare per le vostre prossime date. Sì, allora il disco è distribuito dalla Audio Globe, quindi penso che si possa fare in giro, al massimo ordinare insomma nel negozio di fiducia. E, o cercandolo anche online, ci dovrebbe essere la distribuzione online. E per il resto avremo delle date a maggio che insomma saranno pubblicate sul nostro Tumblr, quindi danzok.tumblr.com. Danzok, per chi non mastica, anch'io non mastico, che tra l'altro non è neanche inglese, perché si scrive DANSOKEY, danzok, quindi mm-hmm. Così, insomma, anche chi magari non ha riferimenti linguistici lo può cercare, dicevi? Sì, dicevo, quindi maggio faremo delle altre date per portare in giro Golpe e avremo probabilmente un nostro video che, insomma, speriamo di fare una presentazione, una serata di presentazione a Roma a metà maggio. La stai proprio in un posto da definire. Però ancora non è, insomma, deciso nulla, appunto verrà pubblicizzato sul nostro sito. Poi se volete venire a Eboli a sentirci, noi il tour lo finiamo a Eboli questo sabato, come Cristo noi. Ok, vabbè, tanto noi spesso passiamo alle vostre cose in generale perché ci piacciono, perché ci piace appunto lo spirito anche che ci mettete, la passione che ci mettete nella musica, quindi insomma lo sapete che sono fan. Ok, ringraziamo Danzok che sono state con noi. Grazie e niente, intanto ci sentiamo la coda di questo pezzo, che però annunci tu perché è in francese, è il secondo. Jean Lasse. Un bacio, un saluto e un in bocca al lupo anche per la chiusura del tour a Danzok. Crepi. Ciao. queste erano Dance OK, che sono state qui in studio con noi a raccontarci insomma dell'album appena uscito. Sisterhood is Blooming per un'altra quarantina di minuti con voi. 0649 1750 se volete far sentire la vostra voce, i vostri squillini. www.twowomenshow.wordpress.com è il nostro blog di riferimento, dove appunto potete trovare podcast, playlist, insomma, e scaricare anche un po' di musica quando possiamo condividerla con voi. mfla.noblogs.org è il blog di riferimento del martedì femminista e lesbico autogestito, dal quale scaricate podcast di tutte le trasmissioni che si succedono durante il martedì. Prossima band, loro arrivano da Brooklyn, si chiamano Shady Hawkins, sono molto giovani, la leader e voce della band, che si chiama Susie, in un'intervista racconta che sono una queer feminist punk band. Lei insomma si è trasferita a Brooklyn giovanissima, a 20 anni, un paio di anni fa si è trasferita a Brooklyn e cercava delle persone, insomma delle ragazze o dei ragazzi con cui mettere su una band appunto queer feminist punk. Non riusciva a trovare nessuno che avesse questo tipo di approccio a questo tipo di musica. Poi durante un music camp, dove appunto anche con altre persone ha fatto dei lavori, dei laboratori eccetera eccetera, è riuscita a incontrare gli altri componenti, due ragazzi e una ragazza che è la bassista della band, con i quali appunto è riuscita a mettere su Shady Hawkins. È molto interessante questa intervista un po' homemade che trovate sul web, sul tubo. Parla di femminismo, parla di Pussy Riot, parla insomma del fatto che dei testi della band e il fatto che comunque lei non si sente rappresentata dal femminismo ufficiale, che non ha più, dice Susie, la reale portata rivoluzionaria che aveva qualche anno fa, e quindi insomma mette dentro la musica quello che sostanzialmente nella politica e nel femminismo, almeno quello ufficiale, non riesce a trovare. Loro sono Shady Hawkins, il pezzo che ho scelto si intitola 6-inch Blade. Follow. Niente male, questa scena di Hawkins, molto qui è feminist punk, non credete? La prossima band si chiamano Teen Vulva, non è un caso, sono anche loro una band tutta femminile, tre donne che arrivano da Brooklyn, anche loro fanno punk, di loro stesse dicono insomma che con la distruzione c'è creazione e all'interno della creazione c'è l'indistruttibilità. Sono molto giovani, Kat Wong al basso, batteria e a voce, Sarah Soller chitarra, basso e voce, Vanessa Rondom batteria, chitarra e voce. Come vedete appunto sono assolutamente intercambiabili nella loro formazione. L'album che porta il titolo del omonimo, Teen Vulva, si chiama come loro, è uscito il 17 marzo del 2013 per la King Killer. Ve faccio ascoltare semplicemente, lo sono Teen Vulva, il pezzo che ho scelto per voi si intitola Sullen for Sound. Erano Teen Vulva, insomma un inizio un po' punk, un po' scoppiettante come piace a me. La prossima band era un po' indecisa se farvele ascoltare, un po' perché loro non escono per un'etichetta indipendente ma escono per una major e quindi insomma questo in genere taglia subito fuori le artiste dalla mia selezione, però in qualche modo anche paragonandole a quelle che vi ho fatto sentire adesso, che hanno un suono un po' più sporco, un po' più diciamo di una produzione un po' più tosta, diciamo così, questa band si chiamano Kitten, invece è una produzione con tantissimi soldi, quindi sentite anche, nonostante facciano anche loro un punk rock abbastanza tosto, la produzione è molto più pulita, molto più morbida. Come vi dicevo si chiamano Kitten e intanto la leader, che è questa cantante che si chiama Chloe Chaides, che è appunto la figlia di un batterista insomma abbastanza famoso, ha 18 anni, è giovanissima. ha un piglio molto, molto, molto bello, molto tosto. Ricordano un po' i Yes dei primi tempi, quindi insomma, ricordatevi quello che vi ho detto, vi faccio ascoltare un pezzo tratto dal loro album, appunto questa produzione dopo l'EP che avevano tirato fuori l'anno scorso. Il pezzo si intitola Kitten with a Whip. Loro sono Kitten. Avete capito com'è la differenza tra un suono prodotto da una etichetta indipendente invece da una major, tutto molto più pulito. C'era quest'ultimo finale che era proprio preso paro paro da un pezzo degli Yes. Anyway, poi mi farete sapere che cosa ne pensate. Prossima band è decisamente la band che più mi è piaciuta in questo mese di ascolti e di scoperte, The Savage. Sono quattro ragazze che vengono dall'Inghilterra, da Londra più precisamente. È una post-punk rock band, hanno un suono super dark, super cupo noir, veramente penso che chi di voi ascoltava robe come Joy Division, insomma, all'epoca veramente sarà assolutamente estasiata dal suono di questa band. Appunto, quattro ragazze britanniche, è uscito qualche giorno fa, a marzo, anzi no, è stato annunciato a marzo, ma uscirà il 7 maggio il loro primo, insomma, vero album, visto che prima avevano fatto delle collaborazioni, dei split e un EP. Uscirà per la Pop Noir in collaborazione con la Matador Records, quindi uscirà sì il 6 maggio del 2013. Io penso che sia un lavoro interessantissimo, quindi vi faccio ascoltare uno dei pezzi che mi piacciono di più, ed è anche il primo singolo, il primo video che è uscito da questo album in uscita. Loro sono The Savage e il pezzo si intitola Husbands. Vi sono piaciute a me tantissimo. Diciamo, all'inizio di marzo c'è stato un festival che si svolge ad Austin, Texas, dal 1987, si chiama South by Southwest, SXSW, ed è un festival musicale e cinematografico molto molto interessante, con un sacco di conferenze. Quest'anno c'erano 8 giorni circa dedicati al cinema indipendente e altri 8 giorni dedicati alla musica. Chiaramente il festival festival risente della, diciamo, della, dell'impostazione, la cultura musicale del Texas, quindi c'è tantissimo country folk, ma che c'è tantissimo anche di altra musica, rock, pop, punk, tutto quello che vi può venire in mente. È una bellissima vetrina, una bellissima scena. Ed è un evento che tra l'altro negli anni ha creato una gigantesca, diciamo, attrazione, è diventata una gigantesca attrazione per quella città. Considerate che in 15 giorni di festival ci sono più di 2000 eventi in città, in tantissimi posti, dai locali più piccoli dove ci sono i concerti a spazi più grandi all'aperto, eccetera eccetera, quindi una cosa veramente molto molto interessante. Alcuni degli eventi potevano essere seguiti anche in streaming, insomma, e quindi una cosa molto interessante. Nella line up della parte musicale ovviamente c'erano molte band, anche moltissime band femminili e interessanti. Io ho scelto per voi una band che si chiama Sally Ford and the Sound Outside. Non a caso fanno appunto di loro dicono una roba tra Ella Fitzgerald e Tom Waits che è abbastanza, diciamo, è un connubio abbastanza interessante. Sally Ford, che è appunto la chitarrista, cantante, leader della band, è un personaggio molto molto molto originale. Il loro album, che si chiama Untamed Beast, secondo me è qualcosa che dovete scaricare subito appena avete un attimo di tempo, oppure andate su www.twomenshow.wordpress.com e trovate tutti i riferimenti di questa band. Loro sono Sally Ford and the Sound Outside. Il pezzo che ho scelto per voi si intitola Devil. What good would that do anyway? Sally Ford and Sound Outside, questo pezzo si intitolava Devil. Restiamo sempre su questo genere per il prossimo pezzo. La band si chiama Hooray for the Riff Raff. È fondamentalmente una band che ruota intorno al personaggio di Alinda Lee Sigarra, chitarrista e voce di questa band, nonché appunto autrice dei brani che la band esegue. È una tipa interessantissima, giovanissima, molto particolare anche nell'aspetto. Lei a 17 anni è scappata via dal Bronx, ha cominciato a girare in lungo e largo l'America registrando da sola molte delle cose che si trovano in giro dal 2007. Finalmente nel 2012 esce Lookout Mama, e quindi insomma vi faccio ascoltare. La loro esibizione è stata una delle più apprezzate a questo festival, South by Southwest Festival, di cui vi parlavo prima, e quindi vi faccio ascoltare il pezzo, uno dei pezzi che io preferisco di questo album, Lookout Mama. Si intitola Little Black Star. Loro sono Hooray for the Riff Raff. baby, she's like a little black star. She's just like her daddy, way yonder far. Just like her daddy, way yonder far. I'm gonna tell my Jesus about my little black star. Gonna tell my Jesus just where she are. Gonna tell my Jesus all about my star. We're down in the swamp, the mean old alligators fight. They fight all day and they fight all night. They fight all day and they fight all like her daddy, way yonder far. Hooray for the Riff Raff, Little Black Star. Insomma, vi ho fatto assaggiare un po' di rockabilly, country folk che veniva appunto direttamente da questo festival South by Southwest di Austin, Texas, che noi ci siamo persi da queste parti del mondo. Era una cosa molto, molto interessante veramente guardare la line-up di questo festival, che era enorme, c'era di tutto, tantissime band, tantissime donne, tantissime band da tutta l'America, piccolissime, insomma, che avevano bisogno chiaramente di suonare, di farsi ascoltare, che è una cosa, insomma, che nei nostri festival qui in Italia, insomma, succede sempre più di rado. Insomma, si cerca sempre le star, le band anche andate ormai per tirar su una buona audience. Guardavo qui, insomma, i festival in arrivo per la prossima estate, e c'era una roba, sembrava di guardare i cartelloni dei festival di 20 anni fa. Ci sono Iggy Pop and Stooges, Deep Purple, Bruce Springsteen, insomma, roba del genere. Quindi, insomma, per quanto sicuramente cercherò di andare a vedere Iggy Pop and Stooges, mi sembrava una roba un po' fuori dal tempo, no? Come se fosse un cartellone di qualche decennio fa. Ok, cambiamo completamente registro. In ogni caso, per questi ultimi 10 minuti voglio farvi ascoltare due cose un po' diverse da quello che abbiamo ascoltato finora. Il prossimo duo si chiama Lion Baby. Loro sono due musicisti americani, Gillian Hervey e Lucas Goodman. Gillian è un la voce di questo duo, sostanzialmente roba elettronica ispirata al, al soul, alla musica degli anni 70, degli anni 90, all'hip hop, un po' di dub, un po' di reggae. Quello che ne viene fuori, devo dire, è che è una roba molto interessante. Per adesso si può ascoltare soltanto, lo potete trovare anche scaricare gratuitamente dai loro riferimenti su web, vari bandcamp che hanno, questo pezzo che, di cui è uscito anche un video che preannuncia l'uscita del loro album, ancora non si sa quando, ancora non si sa per chi. Loro sono Lion Baby, il pezzo si intitola Treat Me Like Fire. Erano Lion Baby, la voce di Gillian Harvey per questo progetto. Il pezzo era Treat Me Like Fire. Vi ricordo prima di salutarvi, di presentarvi l'ultima artista di questa sera, www.twowomenshow.wordpress.com per il podcast, la playlist di quello che avete sentito durante la trasmissione, mfla.noblogs.org, che è appunto il blog del martedì femminista e lesbico ad oggi gestito, dove trovate i podcast di tutte le trasmissioni che sentite, che magari vi siete perse durante il martedì. Questa è Radio Onda Rossa, e io sono Donna Sonica, e vi saluto con un'artista che a me piace tantissimo. Lei è un'artista britannica che di origine londinese e adesso che si è trasferita da un po' a Brighton, dove c'è comunque una bella scena, una bella atmosfera musicale. Il suo album di debutto si intitolava nel 2012, in aprile del 2012 è uscito, e si intitolava Lost Where I Belong per la Ninja Tune, era uscito, e poi tantissime sono le sue, diciamo, le sue collaborazioni, soprattutto con la sua bellissima voce, a progetti come con artisti come Bonobo, Mr. Scruff, Flying Lotus, insomma cose che magari c'è più facile ascoltare. Quindi ho letto un'intervista ad Andrea Triana, in cui appunto annunciava il lavoro, insomma, che sta per finire del suo prossimo album, e quindi anche per questo non ho una data, non ho una etichetta, probabilmente sarà la Ninja Tune, non ho un momento in cui potremo ascoltare la sua bellissima voce, però insomma vi terrò aggiornate. Mi piaceva comunque concludere questa sera con un pezzo tratto appunto da Lost Where I Belong, che è appunto il pezzo che dà il titolo all'album. Donna Sonica vi saluta, vi dà appuntamento a forse fra un paio di settimane. Take care. Andrea Triana, Lost Where I Belong. Louder than before.